giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nuova allerta meteo della Protezione Civile, anche oggi tanta pioggia, vento e possibili mareggiate, acqua alta sulla costa. Il pericolo di infiltrazioni terroristiche attraverso la rotta balcanica, il ministro dell'interno Piantedosi sarà a Trieste il 2 novembre per decidere con i colleghi sloveno e croato le modalità di attuazione che possano rendere ponderata la misura di sicurezza della ripresa dei controlli ai confini. 350 tra agenti militari inviati in Friuli Venezia Giulia dal Ministero dell'Interno per rafforzare le forze di polizia locali in vista della sospensione di Schengen. Le unità saranno impiegate a partire da domani pomeriggio a presidio dei confini con la Slovenia. Oggi lo sciopero generale proclamato da alcune sigle sindacali, possibili disagi nei trasporti, nella scuola e nella sanità. Cresce la fiducia delle imprese del terziario sull'andamento della propria attività in Friuli Venezia Giulia, con il turismo che si conferma locomotiva del tessuto economico. Dimezzati gli incidenti stradali in A4 negli ultimi 20 anni, diminuiti drasticamente gli incidenti mortali. Se ne contano finora 4 contro i 12 di 2 anni fa. Come aiutare i giovani alla deriva, in preda a depressione, droga e alcol? Il progetto di un padre sopravvissuto alla morte di suo figlio per aiutare ragazzi e genitori. La Triestina ritorna al Rocco e affronta il Vicenza, una squadra veramente importante secondo Tesser. Rimane la preoccupazione per le condizioni del campo da gioco. Buongiorno da Lara Zani e Francesca Vigori. In apertura uno sguardo al tempo, il cielo è nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia, piove in montagna, le temperature a Trieste 21 gradi, a Udine Gorizia 18, a Pordenone 16, a Tarvisio e Tolmezzo 13 gradi, a Piancavallo 12, a Forni di Sopra e a Sappada 11, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 9 gradi, a Grado 22, a Legnano 16. E vediamo le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Oggi dunque una nuova allerta meteo gialla perché sono previste piogge intense o localmente molto intense sulla zona montana, abbondanti o intense in pianura e temporaneamente in serata sulla costa. Saranno probabili anche temporali. Soffierà vento forte da sud-ovest sui monti, anche molto forte in quota. Il vento sarà sostenuto anche su pianura e costa, in prevalenza da sud-est, con raffiche anche forti nel pomeriggio e sera sulla costa. In serata il vento girerà da Libeccio. Saranno possibili mareggiate e acqua alta sulla costa, specie tra Lignano e Grado. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sarà a Trieste il prossimo 2 novembre per un incontro con gli omologhi di Slovenia e Croazia sulla sospensione degli accordi di Schengen per contrastare infiltrazioni terroristiche. Lo ha detto il titolare del Viminale ieri a margine del Consiglio dell'Unione Europea a Lussemburgo. C'è stata una sostanziale convergenza sulla sostenibilità di queste misure, ovviamente adottate in una logica di temporaneità e proporzionalità, ha detto Piantedosi. Bene che l'Unione Europea voglia rafforzare i rimpatri, sostiene il Ministro dell'Interno, ma la sospensione di Schengen è dunque temporanea, nessun segnale imminente di allarme in Italia, conferma anche il ROS, minacce terroristiche serie ma non tanto da creare allarmismi. Da domani dunque ripartono i controlli alla frontiera tra Italia e Slovenia, ma sono 11 in totale gli Stati europei che hanno deciso di controllare alcuni dei loro confini per timore di infiltrazioni di elementi radicalizzati nel cuore dell'Europa, tra questi anche la Slovenia e la Croazia. Il servizio. 350 unità inviate dal Ministero dell'Interno stanno arrivando in queste ore in Friuli Venezia Giulia per rafforzare le forze di polizia locali in vista della sospensione di Schengen a partire da domani pomeriggio a seguito del pericolo di infiltrazioni terroristiche attraverso la rotta balcanica. Le unità saranno impiegate ai confini con la Slovenia. A tutte le persone in transito, transfrontalieri compresi, verranno dunque chiesti i documenti. 10 giorni dovrebbe durare il provvedimento, anche se il Ministro dell'Interno Piantedosi ha annunciato che probabilmente il 2 novembre incontrerà a Trieste gli omologhi di Slovenia e Croazia per concordare modalità di attuazione che possano rendere ponderata la misura, tant'è che la sospensione di Schengen è prorogabile fino a 6 mesi. Controlli 24 ore su 24 nei valichi principali, controlli a moduli in quelli secondari. La sospensione del trattato di Schengen riguarda in realtà mezza Europa, anche la Slovenia ha ripristinato i controlli con l'Ungheria e anche con la Croazia. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Possibili disagi in tutto il settore dei trasporti, della scuola e della sanità per lo sciopero generale dei settori pubblico e privato proclamato da alcune sigle sindacali. Fra le motivazioni, il rinnovo dei contratti e l'aumento dei salari e l'introduzione del salario minimo di 12 euro l'ora. In particolare, lo sciopero ferroviario è partito alle 21 di ieri e proseguirà fino alle 21 di oggi. Circoleranno Frecce e Intercity, mentre i treni regionali saranno garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Possibili limitazioni o soppressioni al di fuori di queste fasce orarie. Circolazione quindi sostanzialmente regolare in queste prime ore del mattino, con un solo treno non partito dalla stazione di Udine. Per quel che riguarda i voli aerei, i lavoratori del comparto incroceranno le braccia dalla mezzanotte alle 24. Per effetto dello sciopero nazionale, i voli potranno subire ritardi e cancellazioni, nonché rallentamenti nelle consuete procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili, garantite le fasce orarie di tutela dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. La missione istituzionale che sta compiendo negli Stati Uniti da circa una settimana il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha visitato la sede di due aziende regionali che si sono affermate a livello globale, le multinazionali Lima Corporate e Solari Corporate. Lima è un'azienda friulana nata nel 1945, leader nel settore medicale che produce impianti ortopedici. Solari, nata nel 1725 a Pesaris come fabbrica di orologi da torre, è oggi leader per la progettazione e la produzione di display di informazione al pubblico per stazioni e aeroporti, sistemi di bigliettazione e orologeria industriale. Il tour di incontri istituzionali del governatore Fedriga è proseguito attraverso alcuni vertici con le massime autorità della città di New York. E torniamo a parlare della crisi scatenata dall'attacco di Hamas a Israele. Per quanto riguarda il nuovo fronte di crisi in Medio Oriente, al momento non si prevedono conseguenze drammatiche per l'economia e le nostre imprese, fatti salvi alcuni casi particolari e nell'auspicio che la situazione non degeneri ulteriormente, allargando il fronte del conflitto in corso. Lo ha detto Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Slovenia e vicepresidente di Confindustria Udine. In quest'autunno un ciclo di rallentamento era già previsto e non è causato da quello che è successo ora. Intensità e durata di questo down dipenderanno dal prezzo dell'energia durante l'inverno e dall'andamento dell'inflazione. È chiaro, ha aggiunto Anna Mareschi Danieli, che lo scenario resta incerto a livello mondiale e deve essere costantemente monitorato. Sentiamo in questo servizio qual è l'interscambio commerciale tra il Friuli Venezia Giulia e Israele. 50 milioni di euro il valore delle esportazioni verso Israele nel primo semestre di quest'anno, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, 10 milioni in più dello stesso periodo dello scorso anno, che nei 12 mesi ha registrato 84 milioni di esportazioni, lo 0,4% dell'export totale della regione di 22 miliardi raggiunto nello stesso anno. A trainare gli interscambi il comparto del mobile, 20 milioni, seguono su volumi più ridotti i settori dei macchinari e dei prodotti alimentari. Nel post-Covid, nonostante le tensioni ricorrenti, andava bene anche il turismo, secondo quanto riportano i principali tour operator del Triveneto, come Yacht per i pellegrinaggi e Abaco Viaggi per i tour di gruppo culturali, che in media all'anno faceva partire 400 corregionali. Nel complesso non grandi numeri, ma comunque significativi sul fronte delle relazioni economiche e non solo con l'area medio orientale del vicino Oriente. Non si tratta di rapporti occasionali ma consolidati, sottolinea il presidente di Confapi Friuli Venezia Giulia, Massimo Paniccia, che ricorda: esportiamo tecnologie e beni non facilmente sostituibili da altri, in primis nel campo dell'oil and gas, delle grandi infrastrutture, degli impianti industriali. Paniccia al momento non teme la concorrenza quanto i cambiamenti radicali della situazione nel breve medio periodo, con esiti per la nostra economia imprevedibili. Dello stesso segno Confindustria, che rammenta anche la presenza di imprese a capitale israeliano nel ramo dell'elettronica nell'area Giuliano-Isontina. La regione sta monitorando l'evoluzione della situazione ed è pronta a intervenire a fianco delle imprese che dovessero subire danni a causa del conflitto in corso, assicura l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini, che sottolinea anche gli accresciuti legami istituzionali con Israele. Da ultimo la collaborazione avviata dal presidente Fedriga con Modin, la città più smart di un paese divenuto frontiera dell'high-tech, cooperazione che investe i campi della ricerca, dell'alta formazione, dell'innovazione tecnologica anche sul fronte dell'utilizzo della risorsa acqua, oggi sempre più scarsa. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Entrano nuovi soci nella compagine Nord-Est Multimedia che si appresta ad acquisire dal gruppo Gedi, tra gli altri giornali, Il Piccolo e Il Messaggero Veneto. Nella cordata di imprenditori guidata da Enrico Marchi entrano Confindustria Udine e Fondazione Cassa di Risparmio Trieste. Confindustria Udine spiega che si unirà al gruppo insieme ad ANCE, l'associazione dei costruttori, e assieme avranno il 9,37% delle quote societarie. L'ingresso, ha spiegato Confindustria, è stato deciso poiché rappresenta uno strumento legato al mondo e al tessuto produttivo del Triveneto. Il presidente della Fondazione CR Trieste, Massimo Paniccia, ha spiegato che si tratta di un investimento di tipo istituzionale finalizzato alla tutela e al sostegno dello sviluppo socio-economico del territorio giuliano. Ancora l'economia, migliorano in generale le aspettative delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. In difficoltà invece le aziende del commercio al dettaglio non alimentare. Cresce la fiducia delle imprese del terziario sull'andamento della propria attività in Friuli Venezia Giulia. E quanto emerge dall'osservatorio curato per Confcommercio del Friuli Venezia Giulia da Format Research? Il turismo si conferma vera e propria locomotiva del tessuto economico delle imprese del terziario, con un dato delle strutture di ricezione alberghiera in particolare che è nettamente migliore rispetto alla media nazionale. Sergio Emilio Bini, assessore attività produttiva e turismo. Noi da inizio anno segniamo un più 6%, un numero importantissimo che ci speriamo consentirà di arrivare a quel traguardo che ci siamo dati, 10 milioni di presenze. Rimane stabile l'opinione generale degli imprenditori del terziario circa l'andamento dell'economia italiana nel terzo trimestre 2023. Il dato è migliore rispetto a quello registrato a livello nazionale. Per Luigi Ascani, direttore scientifico Format Research. Prospettive di crescita che si sono riaffacciate sull'orizzonte dell'attività economica delle imprese del terziario, commercio, pubblici esercizi, il turismo, le imprese dei servizi alle imprese. Sembrava che in qualche modo la situazione dovesse peggiorare molto rispetto alle aspettative di fine anno, questa era l'idea che se ne aveva nel corso dei mesi estivi. A settembre, quando è stata fatta l'ultima rilevazione, abbiamo visto che fortunatamente non è così. Le aspettative delle imprese migliorano anche nella prospettiva a 3 mesi, alla luce del terzo trimestre 2023, che ha fatto registrare un miglioramento dei ricavi. Sono invece in difficoltà le aziende del commercio al dettaglio non alimentare. Giovanni Da Pozzo, presidente regionale Confcommercio. Dobbiamo fare una valutazione un po' complessiva, l'economia non bisogna guardarla a spicchi ma nel suo insieme, quindi ci auguriamo che nonostante tutto quello che sta di nuovo accadendo il 2024 possa dare delle soddisfazioni ai nostri imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Mattinata di controlli ieri da parte delle forze dell'ordine al centro di prima accoglienza nell'ex caserma Cavarzerani di Udine per verificare numero e titolo di permanenza delle 540 persone presenti. Centinaia le persone risultate, tutte regolari sul territorio nazionale, esclusione di alcune provenienti da Marocco e Bangladesh, risultate non in regola per il soggiorno in Italia ma che hanno fatto a quel punto richiesta di asilo politico. Alcuni sono stati condotti in questura appunto per il completamento delle pratiche di identificazione e asilo. Nel corso dei controlli alcuni migranti ospiti della struttura hanno scelto volontariamente di allontanarsi. Quando un minore straniero non accompagnato viene rintracciato sul territorio italiano si attiva un iter che coinvolge varie istituzioni competenti. L'incontro Prendersi Cura è l'occasione per approfondire insieme alle figure direttamente coinvolte il percorso di integrazione di ragazzi e ragazze minorenni che arrivano in Italia da paesi stranieri senza l'accompagnamento di un familiare adulto. Grazie agli interventi di Donc Humanitarian Medicine, ODV, UNICEF e Ad Formandum si approfondirà l'importanza di rafforzare la loro identità e le loro competenze per aiutarli nel processo di inclusione nel contesto territoriale. Alle 18.30 al Civico Museo Sartorio di Trieste. L'associazione The Banfield di Trieste sarà protagonista oggi a Roma, Palazzo Giustiniani del Senato, della terza edizione dell'evento Il Testimone del Volontariato Italiano, nato per celebrare volontari e associazioni del panorama italiano per il loro impegno. Grazie alla terza corsia, alla manutenzione e alla gestione della circolazione, il tasso di incidentalità sulla rete autostradale regionale degli ultimi 20 anni si è dimezzato e quello riferito ai mortali è drasticamente diminuito nell'ultimo anno. Dimezzati gli incidenti stradali in A4 negli ultimi 20 anni, diminuiti drasticamente anche gli incidenti mortali, e questo lo si deve, ha detto il presidente di Autostrade Alto Adriatico Gabriele Fava, alla realizzazione della terza corsia che va completata e alla manutenzione dell'infrastruttura esistente. I dati positivi, 20 incidenti ogni 100 milioni di veicoli contro i 40 del 2004, sono stati al centro dell'evento sulla sicurezza Freniamo in Tempo tenutosi in regione. Eppure non mancano, purtroppo è stato il nostro pensiero, le notizie di incidenti lungo uno dei tratti più frequentati di tutto il nord-est. Il problema, ha detto Fava, è soprattutto la disattenzione, e ha ribadito i consigli. Non usare il telefonino, cercare di non guardare i tablet e concentrarsi sulla guida, perché naturalmente la sicurezza la facciamo tutti insieme. L'appello dunque è a fare squadra nell'obiettivo di incidenti zero, ecco perché coinvolti nel confronto le istituzioni, le forze dell'ordine, l'INAIL e la Confindustria Alto Adriatico, impegnata a promuovere la guida sicura nelle aziende e da quest'anno anche nelle scuole. Dario Trevisol, Confindustria Alto Adriatico. Formazione motivazionale per far sì che quei luoghi comuni del a me non succede, ho sempre fatto così, avevo fretta, vengano poi invece, si trasferiscono in comportamenti virtuosi. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. Italia Viva ha proclamato ufficialmente gli eletti ai vari livelli congressuali. Matteo Renzi, come sapete, nuovo riconfermato presidente nazionale. Sandra Telesca, presidente regionale del partito in Friuli Venezia Giulia. A livello provinciale, eletti presidenti Giuliano Castenetto per la provincia di Udine, Walter Godina per la provincia di Trieste, Mauro Piva Pordenone, Lorena Contestabile a Gorizia. I presidenti procederanno nei prossimi giorni alla nomina delle segreterie e alla convocazione delle prime assemblee territoriali, e come da regolamento verranno fissate entro fine novembre le date dei congressi comunali in tutta la regione. Quanto è donna la scienza? Ne hanno discusso ieri pomeriggio a Miramare due astrofisiche, la britannica Jocelyn Bell Barnell, scopritrice delle stelle di neutroni, e l'italiana Licia Verde, nell'ambito dell'appuntamento all'universo delle scienziate promosso dalla SISSA. Tanto è cambiato per le donne nel mondo della ricerca, ma tanto resta ancora da fare. Sentiamo le due interviste. Women were very, very few. Quando entrai nel mondo della scienza negli anni 60, le donne erano pochissime e l'attitudine dei colleghi uomini verso di noi era piuttosto ambivalente. Eravamo studentesse o eravamo oggetti sessuali? Ricordo che quando una studentessa entrava in aula, era usanza che tutti i maschi ci fischiassero dietro, battendo i pugni sui banchi e facendo più baccano possibile. Non penso che sia solo uno il soffitto di cristallo che le donne devono ancora infrangere, anche nella scienza. Ci sono molti aspetti sotto cui gli uomini sono più avvantaggiati delle donne. Pensiamo all'avere dei figli e a chi se ne debba occupare. Quanto è donna la scienza oggi? Più che nel passato, ma ancora non abbastanza. Sappiamo che le donne non sono altamente rappresentate nella scienza, però giocano un ruolo importante in Italia e anche un po' dappertutto. Però è vero che c'è un gradiente, diciamo, nord-sud dell'Europa in questione di parità di genere, e c'è anche un gradiente, diciamo, al mondo anglosassone rispetto al mondo mediterraneo, e quello c'è nella società e quindi anche si riflette nella scienza. Se lei volesse lanciare un messaggio, dare un consiglio a una ragazza che vuole intraprendere oggi una carriera, e una carriera accademica soprattutto nell'ambito scientifico, che cosa si sentirebbe di dirle? Vai, fallo, avanti. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'archivio del fotografo marchigiano Luigi Crocenzi, acquisito dal CRAFT, è stata una delle proposte della struttura di Spilimbergo per quanti, grazie all'iniziativa Archivi Aperti, hanno voluto visitare la sua sede. In occasione dell'iniziativa nazionale Archivi Aperti, il CRAF, Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo, ha aperto la propria sede di Palazzo Taddea ai visitatori, offrendo la possibilità di osservare da vicino gli originali fotografici dell'archivio di Luigi Crocenzi, fotografo e intellettuale di cui ricorre quest'anno il 100° anniversario della nascita, un tesoro di grande valore storico e documentario. Il direttore del CRAF, Alvise Rampini. La fototeca del CRAF contiene oltre 600.000 opere fra lastre, negativi e positivi. All'interno di questo gigantesco archivio c'è un fondo assolutamente importante, quello di Luigi Crocenzi, classe 1923, scomparso nel 1988, è un grande intellettuale e fotografo che ha all'interno del CRAF oltre 2.000 positivi e quasi 6.000 negativi. E poi un epistolario anche importantissimo, conservato in modo quasi maniacale, ordinato in modo maniacale dallo stesso Luigi Crocenzi, e una biblioteca e un archivio, sì, perché Luigi Crocenzi, oltre ad essere un intellettuale fotografo e quindi conservava le sue fotografie, conservava, era anche un mecenate che conservava molte fotografie di giovani talenti di allora, Mario Cresci, Ferdinando Scianna, Berengo Gardin, un archivio tutto da studiare, un archivio che viene sempre studiato da numerosi intellettuali e studiosi ricercatori, ma c'è ancora tantissimo da fare all'interno. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Giampiero Ghirini è un padre, fondatore della Fondazione Emma Pesciolino Rosso, che sarà protagonista dell'incontro Lasciami Volare, organizzato dall'Associazione Culturale Le Ali delle Notizie, alle 20.30 nell'Auditorium Comunale Casa della Cultura a Ronchi dei Legionari. Ghirini è riuscito a sopravvivere alla morte del figlio Emma e ora porta la sua testimonianza in giro per l'Italia. Gli abbiamo chiesto come è riuscito a trasformare il suo dolore in un progetto per salvare altri ragazzi. Diciamo che più che riuscito mi metterei al gerundio, ci sto provando, ci sto riuscendo, spero che la vita in qualche modo mi dia ragione. E sono riuscito nel momento in cui ho cominciato a non rifiutare più quel dolore, ma ad accoglierlo, ad accettarlo, ma ho dovuto fare un passaggio, cominciare ad amarmi, perdonarmi anche per i miei errori che sicuramente ho fatto ed andare avanti. Lei ha incontrato tantissimi ragazzi, qual è il messaggio che cerca di trasmettere e che reazioni incontra? Mio figlio Emanuele si è buttato in un fiume dopo aver preso una droga sintetica e tutti si aspettano che io parli di droga, ovviamente qualcosa accenno ai giovani e ai ragazzi, ma il messaggio fondamentale che io porto è quello, è un messaggio di vita e di speranza, soprattutto la speranza oltre il dolore, far capire a questi giovani che quando incontreranno le difficoltà nella vita, l'errore più grave è quello di cadere in una dipendenza perché gli è successo questo, per avere un alibi, per spegnersi. Io invece sostengo che il dolore e le difficoltà che incontriamo nella vita non sono altro che un'occasione per conoscerci e per crescere come esseri umani. Come reagiscono i ragazzi di fronte a questo messaggio? Io vedo che la droga interessa a qualcuno, la vita interessa a tutti e io lo vedo nei loro occhi, lo sento nei loro respiri e comprendo il mio sogno è questo, che quando faccio un evento, un incontro, che ognuno porti via un pezzettino di Emanuele nel suo cuore, quello aiuti ad essere migliore, vedo, abbiamo delle risposte molto importanti. Proseguono le commemorazioni a 60 anni dalla tragedia del Vajont. I bersaglieri, che furono fra i primi a intervenire nell'ottobre del 1963, ritornano a Longarone con l'esercitazione nazionale dei nuclei di protezione civile e raduno interregionale Veneto Friuli Venezia Giulia. Da oggi a domenica i volontari di protezione civile dell'Associazione Nazionale Bersaglieri renderanno onore ai loro predecessori, giovani militari di leva, che si impegnarono con tutte le loro forze per cercare di liberare dal fango le abitazioni e trarre in salvo i superstiti. Sarà l'occasione per un addestramento nelle attività di protezione civile al quale potrà assistere e partecipare la popolazione, in particolare gli studenti. Lungo gli stradoni della valle scorrerà poi la staffetta Cremisi della Solidarietà, con cui un gruppo di bersaglieri atleti collegherà idealmente le località più colpite di Longarone, Erto e Casso, trasportando un testimone artistico creato da maestranze locali. Diamo ora uno sguardo a qualche appuntamento culturale della serata in regione. In scena a Rossetti di Trieste, il Marchese del Grillo del Teatro Sistina con Max Giusti nel nuovo adattamento di Massimo Romeo Piparo e Gianni Clementi. Oggi e domani alle 20:30, domenica alle 16. Al via l'edizione 2023 di Wunderkammer, il festival che si svolgerà tutto in un fine settimana, da questa sera fino a domenica. Oggi il via con Arnalta Caffè, mix di musica classica e caffè chantant con Luca Cervoni, specialista del repertorio barocco, e il compositore Alessandro Quarta con l'ensemble Concerto Romano. Lo spettacolo va in scena a Trieste al Teatro Miela alle 20:30. Il coro partigiano triestino Pinko Tomažić festeggia 50 anni d'attività con un concerto nella Sala Ruttazzi del Porto Vecchio di Trieste alle 20:30. Serata dedicata alla danza contemporanea con coreografi e danzatori provenienti da tutto il territorio nazionale che si esprimono e riflettono sui temi più disparati. Protagonisti la compagnia Tocna Danza, Balletto Teatro di Torino e Compagnia degli Astanti. A Trieste, ad Hangar Teatri alle 20:30. Miti e un viaggio nel tempo tra metamorfosi, musica e letteratura, da Ovidio a Lorenzo De Medici, da Giovan Battista Marino a Cesare Pavese, proposto dal flautista Ubaldo Rosso e dall'attrice Elena Zegna al Castello di Spessa alle 18. E ora lo sport, gioia nel ritorno al Rocco o preoccupazione per le condizioni del terreno. Certamente prevale la gioia nel tornare davanti ai nostri tifosi nello stadio dove è naturale che giochi la Triestina. Ringraziamo naturalmente Fontana Fredda per la gentilezza e per come si sono messi a disposizione nei nostri confronti, ma chiaramente fa molto piacere tornare a casa nostra. Così alla vigilia della nona giornata Triestina-Vicenza in programma questa sera al Rocco con calcio d'inizio alle 20:45, Attilio Tesser ha presentato la sfida. Il Vicenza, ha detto ancora Tesserna, chi conosce questa categoria è stato indicato come una corazzata e penso che già lo fosse lo scorso anno. Questa stagione si è ulteriormente rinforzata con innesti mirati di livello alto per la Serie C o provenienti da categorie superiori, formando una squadra veramente importante. Ma al di là dei valori, nel campionato le partite sono tutte difficili, non ce n'è una facile. Anche all'interno di una singola gara possono esserci momenti di difficoltà. Oltre a Malomo, che è squalificato, non ci sono particolari problematiche. Ieri non si è allenato Cazzinari, complice una botta, ma è recuperabile. L'idea di formazione ce l'ho, ha concluso Tesser. Diciamo che dalla scorsa partita non ci saranno grossi scostamenti. Ancora calcio, il posticipo del lunedì sera con il Lecce rischia di essere l'ultima chiamata utile per il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil. Nonostante l'assenza di vittorie nelle prime 8 giornate, la società gli ha rinnovato la fiducia, senza approfittare della sosta per le nazionali per affidarsi a un altro allenatore, come ha fatto per esempio la Salernitana. Il club friulano ostenta tranquillità e assicura che non è stato posto alcun ultimatum. I nervi sono comunque tesi. Incognita anche sul futuro di Deulofeu, nonostante l'allungamento del contratto sbandierato in estate, i tempi di rientro dall'infortunio al ginocchio sono avvolti dal mistero. Ai box anche Davis, Brenner e Semedo, con l'attacco che resterà a lungo spuntato. E non aiutano le nuove voci sulla possibile partenza di Samardzic già a gennaio per approdare alla Juventus. Per il posticipo torna a disposizione Cabasella in difesa, mentre davanti si potrebbe profilare l'inserimento di Pereira alle spalle di Lucca con il sacrificio di Toven. Niente da fare per i ragazzi della Pallanuoto Trieste che cadono in casa per 11-12 contro i siciliani dell'Ortigia Siracusa alla Piscina Bianchi ieri sera. Sono partiti forte i padroni di casa con 3 reti che sembravano indirizzare verso la propria direzione la partita. Bravi gli ospiti a chiudere presto il distacco, a rimanere incollati ai giuliani. Il testa a testa proseguito fino alla fine con l'assalto conclusivo alla porta avversaria da parte di Trieste, che è uscita sconfitta nella seconda gara del girone D, come accaduto nella prima giornata. Giacomo Bettini, miglior marcatore della squadra di casa, 3 volte a segno. Iniziamo la rassegna stampa con l'apertura del Messaggero Veneto di Udine, che è dedicata alla questione migranti e sicurezza. Valichi, rinforzi in arrivo, saranno impiegati 300 agenti provenienti da altre regioni. Da domani al via i controlli. Intanto alla Cavarzerani verifiche su oltre 500 immigrati trovati irregolari, mentre il governo sloveno ha deciso di blindare la rotta balcanica. Per la cronaca, Udine è un progetto da 4.600.000 euro per il recupero totale dell'ex scuola di Toppo Wasserman. Ancora Udine, vandalismi nei giardini Valvason Morpurgo, rotto il dito a una statua. A Mortegliano invece in beneficenza i ricavi del succo delle mele colpite dalla grandine. Di piede la parata di Chef Stellati a Udine per Ein Prosit. Sul tema della sicurezza, l'edizione di Pordenone del Messaggero Veneto propone l'intervista al nuovo prefetto Natalino Domenico Manno, guardia alta e alla base misure rafforzate. C'è poi l'ipotesi di una candidatura alle europee 2024 per il sindaco Alessandro Ciriani. Per la cronaca, la vicenda dei lavoratori in nero che prendevano il reddito di cittadinanza e a Vivaro è stata fatta brillare una granata inesplosa trovata al poligono. Infine la storia del lazzanese Massimo Pavanel, da Fratte agli USA, Apple lo invita a testare Vision Pro. Anche il Piccolo di Trieste apre con la notizia dell'arrivo di 300 rinforzi per presidiare i valichi, attesi 150 uomini a Trieste, 75 a Gorizia, torna il confine Slovenia-Croazia e anche l'Austria blinda il territorio. Richiamo in prima anche sulla sanità, vaccini anti-influenzali anti-Covid disponibili soltanto nel 13% delle farmacie. Poi il Delfino Verde studia per il 2024 una tappa a Miramare e lo sport, oltre 7.500 spettatori al big match a Rocco contro il Vicenza, stavolta la parola al campo. Nell'edizione esontina l'appello dei sindaci di Gorizia 2025, avanti col nostro progetto che unisce e non divide. Capocronaca di Gorizia, dedicato ai progetti culturali, turistici e enogastronomici in vista della capitale europea della cultura, dal GECT 4,5 milioni per 27 progetti, il budget messo a disposizione dai fondi Interreg è cresciuto dal 50% rispetto alla cifra iniziale. Nella cronaca di Monfalcone l'arresto di un monfalconese di 53 anni per le rapine a due anziane del posto, entrambe rimaste ferite nell'aggressione. Sulla prima pagina nazionale del Gazzettino la rotta balcanica, altri 200 agenti alle frontiere, ma il flusso non si fermerà. Nelle pagine locali a Udine l'apertura è dedicata alle scommesse, affare da 4 miliardi di euro. Il volume delle puntate in Friuli pareggia il valore della sanità locale, la metà dei flussi deriva da circuiti illegali. Tutto parte dal caso del calciatore Fagioli, che ha fra l'altro un debito da 17.000 euro a Pordenone. In alto migranti scatta il blitz alla caserma Cavarzerani, ospite al setaccio, ma dopo l'operazione scavalcano il muro. Per la cronaca, tentato omicidio, catturato in Belgio, era stato condannato in regione. E poi al centro il bilancio della lotta alla droga, 1.000 controllati, ma pesano i troppi impegni degli agenti. A seguire i numeri del turismo, che può vincere se fa squadra, e lo sport. Per il calcio messaggio a Silvestri deve dare di più, per il basket Old Wild West Gesteco, derby di numeri e di cuore. Per il rugby, Bergamasco sbarca Pasean di Prato, campus con i giovani. Nell'edizione di Pordenone la notizia principale arriva da Vivaro, spunta una bomba dimenticata, bonifica sollecitata dalla procura. L'ordigno, con carica ridotta, inesploso, trovato durante il rastrellamento dei militari dell'Ariete. Nella fotonotizia centrale tutti sognano il volley, lite tra sindaci. I sindaci sono quelli di Prato e Pordenone sul caso Tinet. Per la cronaca la frode è scoperta dalla Guardia di Finanza, bonus povertà e disoccupazione, ma erano al lavoro. Nel calcio il messaggio dell'avvocato Roberto Casucci ai tifosi neroverdi, al lavoro per voi, mentre per il basket Hormi in trasferta, pronto l'esercito dei fedelissimi. Torniamo al nostro giornale con qualche altro appuntamento in regione, nell'ambito del progetto La Soglia di Gorizia del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste, giornata di studi sulla guerra fredda e la difesa del confine orientale italiano a partire dalle 9.15 nella sede di Gorizia dell'Università di Trieste. Il generale di Corpo d'Armata Silvio Mazzaroli presenta il suo libro Una vita con il cappello d'alpino in compagnia del giornalista e cronista di guerra Fausto Biloslavo. Introduce due ospiti, il sindaco di Aquileia Emanuele Zorino, alle 20.30 nella sala consiliare del comune di Aquileia. Trieste, il tempo della storia, il titolo del volume dedicato alle immagini realizzate tra il 1918 e il 1950 da Francesco Penco, uno dei più prolifici e interessanti fotografi e cineoperatori del Novecento triestino. In 190 pagine è raccontato l'impatto sulla città dello sbarco delle truppe del Regno d'Italia e che presero possesso di Trieste in quello che fu fino al 1914 il principale porto dell'impero austro-ungarico, al circolo della stampa di Trieste alle 17.30. A Tarcento si apre oggi il secondo convegno itinerante sulle battaglie della ritirata di Caporetto. Dentro il cerchio nemico, arrendersi o continuare a combattere. Intervengono Zedico Cimpric, Paolo Gaspari, Marco Pascoli, Paolo Pozzato, Andrea Vazzaz. In Sala Margherita alle 18. L'Ecomuseo Cavalier apre le porte al mondo immaginifico delle fiabe e leggende popolari friulane, con un focus sulla Carnia, con la presentazione dell'ultimo libro di Raffaella Carnieluc, Sì, la pulce e altre storie della carne alle 18 nel museo. Nell'ambito delle manifestazioni per ricordare il centenario della realizzazione dell'omonimo ponte sul Tagliamento, Paolo Strazzolini presenta a Dignano il rendiconto di una ricerca condotta alcuni anni fa assieme a Emanuele Moro, con la collaborazione dei servizi tecnici della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Spilimbergo, sulla storia dell'antesignano ponte di Bonzicco, realizzato nel 1915 un paio di chilometri a valle dell'Odierno e di cui l'infrastruttura attuale rappresenta l'eredità storica. Alle 17.45 nel centro civico di Piazza Cimolino. Il nostro giornale si chiude qui da Lara Zani e Francesca Vigori che lo hanno redatto e condotto, Carlo Morello che ha curato la parte tecnica, Samantha Gon che ha collaborato in redazione. Grazie per la cortese attenzione. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.